Le nostre idee sono un patrimonio molto prezioso di cui andiamo molto fieri, anche perché spesso sono frutto di una conquista lenta e faticosa. E forse anche per questo motivo, tante volte ci risulta difficile confrontarci con le idee degli altri, perché magari in questo confronto abbiamo paura di dover rinunciare a qualcosa per il quale abbiamo tanto faticato e tanto sudato. Nel video della settimana scorsa abbiamo visto come sia importante coltivare dentro di noi un atteggiamento mentale di grande apertura. Potremmo riassumere così: è importante confrontarci con le altre persone perché è un'incredibile occasione di crescita. Oggi vorrei fare con voi un passo in più, vorrei parlarvi di un piccolo atteggiamento pratico che può aiutarci a confrontarci nel modo migliore con chi non la pensa come noi. Immagina di parlare con una persona che ha idee completamente differenti dalle tue proprio su un argomento sul quale tu hai idee ben chiare. Quale sarà il tuo atteggiamento mentale a riguardo? Io credo che in quei casi, dentro di noi, ci sono due atteggiamenti molto chiari, molto distinti. Un atteggiamento di difesa e uno invece di attacco. Mentre l'altro comincerà ad esprimere le sue argomentazioni, dentro di noi i nostri neuroni cominceranno a correre all'impazzata, cercando invece quello che conferma la nostra idea, quindi in difesa. Nello stesso tempo, cercheremo quegli argomenti che ci permettono di attaccare le sue idee per dimostrargli che invece siamo noi che abbiamo ragione. Una cosa è certa, tutto questo ci costa molta fatica mentale. Quando poi verrà il nostro turno di parlare, che cosa diremo? Provo a indovinare la prima parola che uscirà dalla nostra bocca. Probabilmente sarà la parola no. No, perché vedi, tu certo affermi questo, però devi tenere conto anche di questo e di quest'altro. E poi la realtà è diversa perché devi capire la complessità del problema. Ecco, adesso voglio invece dirti come la penso io, che è diverso da quello che pensi tu. E così spesso il dialogo procede per negazioni reciproche. Lui dice una cosa e io la nego, allora poi lui però negherà quello che ho detto io e io a mia volta negherò quello che ha detto lui. E così il dialogo prosegue spesso come su due binari paralleli. Pensa ai talk show televisivi oppure ai dibattiti politici. Qual è lo schema di comunicazione che spesso si ripete all'infinito? Una guerra ininterrotta e reciproca di idee completamente contrapposte, in cui ognuno non fa altro che argomentare la sua idea negando l'idea dell'altro. Anche perché quando ci sentiamo attaccati ci viene voglia di difenderci e di attaccare poi a nostra volta. Ma siamo sicuri che sia proprio l'unico approccio comunicativo possibile? Non sarà che inconsapevolmente o meno. Tutti noi siamo un pochino influenzati da questa continua guerriglia di opinione che si ripete in televisione e che noi poi, che lo vogliamo o meno, tendiamo a ricalcare nelle nostre discussioni quotidiane. Ecco quindi un atteggiamento concreto che puoi cercare di mettere in pratica per provare ad avere una comunicazione diversa. La prossima volta che ti troverai a parlare con una persona che ha idee completamente diverse dalle tue, ascoltalo bene, ascoltalo in profondità e prova a cogliere se in quello che sta dicendo c'è una parte di verità che anche tu puoi condividere. Prova a concentrarti su quell'aspetto del problema che il suo ragionamento mette in luce e quando viene il tuo turno, invece di dire subito no, io la penso diversamente, prova magari a cominciare così. Ma lo sai che hai proprio ragione? Non ci avevo mai pensato, non avevo mai colto la realtà da questo punto di vista. Le parole che tu stai dicendo mi hanno proprio aiutato a cogliere un aspetto del problema sul quale io prima non riuscivo proprio a concentrarmi. Cosa succederà a questo punto? Che la persona con la quale stai parlando smetterà di sentirsi in guerra con te, sentirà di essere capita, sentirà che hai cercato in modo sincero di ascoltarla, di cogliere la parte di verità che anche lei sta esprimendo. Smetterete, cioè, di essere due persone in trincea che cercano di strapparsi un metro dopo l'altro un terreno nel ragionamento che state portando avanti. Facendo così diventerete due persone impegnate nella comune ricerca della verità, in cui sia tu sia lui potrete aiutarvi vicendevolmente nel cogliere aspetti del problema che da soli non riuscivate a cogliere. A quel punto potrà arrivare il momento in cui tu stesso potrai esprimere il tuo punto di vista, non presentandolo come una verità assoluta, ma proprio come un punto di vista che tu stai offrendo all'altro perché anche lui possa capire qualcosa in più. Sai, su questo punto hai proprio ragione, sono d'accordo con te, ma forse non hai tenuto presente anche quest'altro aspetto del problema. Ecco, io penso che sia importante tenere presente anche questa cosa. Io credo che troppo spesso le nostre discussioni sono infruttuose perché ciascuno pensa di avere il 100% della verità e l'altro il 100% dell'errore. In realtà sono ben poche le questioni in cui verità ed errore, ragione e torto sono delineate in modo così chiaro. Che 2 più 2 fa 4, siamo tutti d'accordo, ma nella stragrande maggioranza delle nostre discussioni di natura etica, politica, religiosa, umana, gli aspetti del problema sono talmente tanti che è veramente difficile che qualcuno abbia tutta la ragione e l'altro tutto il torto. Riconoscere che l'altro ha una parte di ragione e dirlo esplicitamente, fare capire all'altro in modo sincero che l'abbiamo ascoltato, che l'abbiamo capito, che condividiamo una parte del suo ragionamento, può essere proprio quel punto di partenza fruttuoso sul quale portare avanti una discussione che non sia una guerra, ma che sia veramente un confronto reciproco di opinioni. Quindi la prossima volta che ti trovi in una discussione, non averne paura, ma prova ad affrontarla in questo modo, invece di iniziare il tuo intervento con un no, prova a iniziarlo invece con un sì, che riconosca le ragioni dell'altro, che tenti di mettersi nei suoi panni, che tenti di capire in profondità il suo ragionamento per costruire così un terreno comune sul quale entrambi possiate crescere. Fammi sapere nei commenti che ne pensi e se ti viene in mente qualche episodio in cui hai vissuto proprio una guerra di opinione e qualche altro invece in cui sei riuscita a confrontarti in modo sereno. Lascia un mi piace e condividi questo video con i tuoi amici e sulla tua pagina Facebook.